Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, 60ª puntata di Restiamo Animali, la trasmissione che vi accompagna da marzo 2012 nella costruzione di una società e di un pianeta cruelty free. Per chi non ci conoscesse già, Restiamo Animali è una trasmissione che si pone l'obiettivo di promuovere i diritti dei viventi, di tutti i viventi, senza escludere proprio nessuno. Per questo le nostre riflessioni partono da loro, i più oppressi tra gli oppressi, gli animali, incoraggiando e agevolando la conquista di tutti i diritti che meritano. Senti la luce dell'inza, seguila con tutta la forza. Ascolta il tuo cuore che canta, così che la gioia è tanta, come la musica porta. Ed è un grande traguardo per la nostra piccola redazione essere andati in onda 60 volte, irriverenti verso ferie e feste comandate. Increduli, orgogliosi ai microfoni dello Studio 2 oggi, Camilla Lattanzi, Lorenzo Guadagnucci, Silvia Vallecchi e Valentina Reggioli. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Corpo risvegliato nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino. Nella rubrica Visti da vicino di domenica scorsa abbiamo fatto partire il viaggio attraverso la pulsante vita animale ospitata dal centro faunistico di Monte Adone, un rifugio per animali selvatici ed esotici che si trova sull'Appennino tosco-emiliano, visitato da noi l'estate scorsa per la trasmissione Restiamo Animali. Domenica scorsa abbiamo raccontato, attraverso la voce di Mirka Negrini, fondatrice e presidente del rifugio, le storie degli animali recuperati e salvati dall'estate scorsa a oggi, aggiornando quindi la fotografia del centro che abbiamo scattato noi durante la nostra visita. Oggi continuiamo il nostro dialogo con Mirka Negrini, che ci racconterà prima la storia della fondazione del rifugio, poi quella di Madonna, una baby cinghialina che prende ancora il biberon, rimasta orfana in occasione di uno dei cosiddetti piani di abbattimento. Io e mio marito abbiamo sempre avuto in comune la passione per gli animali. Noi abitavamo a Bologna, erano gli anni 86-87, cominciava a crescere la sensibilità nei confronti degli animali e non c'erano centri, ce n'era solo uno a Parma. Quando si trovava un animale che non era un cane o un gatto, non c'era nessuno che se ne occupasse. Quindi noi abbiamo cominciato così, pensando di fare un punto di prima accoglienza per la fauna selvatica in difficoltà. Abbiamo parlato con la provincia e per 4 lunghi anni abbiamo cercato di far nascere la prima convenzione, che è nata poi nel 94. La convenzione che attualmente c'è ancora, è stata rinnovata, è dal 94 che l'abbiamo e viene rinnovata annualmente. Che lavoro facevate? Un'attività completamente diversa, lavoravamo in proprio, poi mio marito è stato anche per un breve periodo, per 3 anni di mandato, è stato consigliere comunale a Bologna e assessore qui a Sasso. Poi ha rinunciato all'attività politica completamente. Non ne ha voluto più sapere niente, ma solo quella di tecnico, quindi è stato anche consulente del Ministero dell'Ambiente, giù a Roma. Quando ci siamo trasferiti qui le cose sono cambiate. Qui è qualcosa di più che vivere in campagna, siete quasi nel bosco, siete abbastanza isolati. Avevate già l'idea, diciamo, di avere terra per ospitare animali? Avevamo l'idea di vivere in collina. più che in campagna soltanto. Poi sono cominciate ad aumentare le attività a favore degli animali. Diciamo che la cosa ci ha preso la mano. Io come posso descriverla? Delle volte dico è come un sassolino che mentre rotola diventa una valanga. Il centro ha fatto questo. Ha cominciato come un sassolino ed è cresciuto sempre di più. Quanti animali avete adesso, se avete fatto un censimento? No, è difficile fare un censimento perché c'è molto avvicendamento di avanti e indietro, di animali che entrano, escono e soprattutto nella fauna selvatica, se contassimo veramente tutto, in alcuni momenti puoi arrivare ben oltre i 300, in altri momenti sono un po' meno. Io credo che adesso se contiamo tutto, soltanto le tartarughe sono 93 solo loro, più i ricci che ce n'è un'infinità. Non so, se contiamo tutto, dai caprioli ai ricci, i pappagalli e tutto quanto, siamo ben oltre i 300. Che prospettive avete? Come vedete il vostro futuro? Voi siete marito, moglie e una figlia, mi sembra molto appassionata anche lei. Sì, mia figlia è molto appassionata e questo credo che sia la sua vita, sicuramente non penso che ci voglia rinunciare. Il centro qualche volta dicono che dà dipendenza. E noi abbiamo un diario del centro fatto anche dai volontari nei quali sono scritte delle frasi di saluto e delle volte di ritorno, e questa cosa riemerge spesso. Immagino che per voi sia bello sapere che ci sarà una continuità, che questa cosa non finirà con voi ma che continuerà con vostra figlia. Non riesco a immaginare che non possa esserci una continuità, perché alcuni di questi animali sicuramente mi sopravviveranno, quindi mi piacerebbe pensare che o vanno in un'alternativa migliore o restino qua. Qui vediamo una bellissima cinghialina con le sue bellissime strisce orizzontali dentro una gabbietta davanti alla casa del rifugio. Mirka, che storia ha questa cinghialina? Allora, preciso innanzitutto che non sta sempre lì dentro, è lì dentro nel momento in cui non può essere controllata. Lei segue le persone perché è arrivata piccolissima, quindi prende ancora il biberon e quindi è inevitabilmente imprintata, è inevitabilmente legata all'uomo. È stata trovata abbandonata, come spesso succede purtroppo quando ci sono i piani d'abbattimento, vengono uccise le madri e tante volte i piccoli riescono a scappare o perlomeno si disperdono e vengono trovati poi da privati cittadini o in varie situazioni. Ne abbiamo diversi di cinghiali. Quest'anno è stato molto peggio che altri anni, cioè ne sono arrivati più di uno, per cui non è un animale che chiaramente si potrà rimettere in natura perché è abituato all'uomo, conosce l'uomo, lo va a cercare. E noi abbiamo un'alternativa, abbiamo già dei contatti con una fattoria didattica vicino a Parma, ma con uno spazio notevole a oltre 100 ettari, quindi verrà trasferita lì, insomma è uno stato, non dico di semi libertà, ma effettivamente è uno spazio veramente notevole. Lei e altri due. L'avete nutrita quindi con il biberon? Ancora prende il latte col biberon, però poi gli facciamo anche già lo svezzamento con altre cose, insomma, quindi con la frutta, con più di una cosa. Se vi siete incuriositi e volete approfondire, vi consigliamo di farvi un giro nel sito internet www.centrotutelafauna.org. dove troverete fotografie e le storie dei più svariati ospiti che ha avuto il rifugio. Ma chi ha detto che non c'è nella fine dello stato? Ma chi ha detto che non c'è? Non c'è, c'è. Ma chi ha detto che non c'è? C'è. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Professor Gianni Tamino, noto biologo dell'Università di Padova, uno dei promotori della petizione popolare su base europea Stop Vivisection, che in risposta alla recente direttiva europea sulla vivisezione, che è ancora in corso di approvazione nel nostro paese, chiede l'abolizione della vivisezione e la riscrittura di una legge europea radicalmente diversa e scientificamente più avanzata in questo campo. L'iniziativa deve raccogliere 1 milione di firme entro il novembre del 2013. Appoggiamo e appoggeremo questa campagna e chiediamo al professor Tamino di aggiornarci sullo status quo. Ecco, va spiegato forse che l'Unione Europea ha introdotto una nuova possibilità di iniziativa diretta da parte del pubblico di proporre online e anche in via cartacea dei quesiti sui quali impegnare la Commissione a dare delle risposte. Top Vivisection dice semplicemente questo: oggi la vivisezione, sulla base di moltissimi studi pubblicati nelle più prestigiose riviste, non ha dato risultati utili per l'uomo, al contrario, ha impedito forse uno sviluppo migliore delle conoscenze scientifiche e di fatto con la sperimentazione sull'animale spesso è l'uomo che fa da cavia, perché non avendo risultati credibili e attendibili si passa alla sperimentazione sull'uomo senza garanzie. Per questi motivi si dice aboliamola, perché questo è progresso scientifico. Siamo partiti proprio dal fatto che la nuova direttiva è un peggioramento della precedente, non perché fossimo d'accordo con quella direttiva che comunque permetteva di fare la sperimentazione animale, bastava giustificarla o altro, ma addirittura qui si è peggiorato perché si può riutilizzare gli stessi animali, in molti casi basta dichiarare una motivazione, si può farlo senza anestesia, si possono usare cani e gatti e randagi, cioè tutta una serie di cose che tra l'altro anche scientificamente sono incredibili. Noi vorremmo arrivare ad avere un gran numero di firme per far capire anche a livello italiano che la popolazione, come si è vista anche nella protesta contro l'utilizzazione dei cani Green Hill e altre situazioni analoghe, che la popolazione italiana è sensibile, cosciente eticamente, cosa importante, ma anche ha raggiunto una capacità di valutare che proprio scientificamente vi è un errore metodologico nel pensare che un animale possa determinare un risultato utile per la specie umana. Quando abbiamo un dato su un ratto non sappiamo neanche quello che succederà in un topo, pur essendo due animali molto simili, tant'è vero che moltissimi composti hanno comportamenti enormemente diversi all'interno di roditori diversi come ratto e topo. Figuriamoci se posso estrapolare questi dati all'uomo. Cosa ne pensi allora delle persone che vanno in Svizzera in questi laboratori e per soldi fanno sperimentare farmaci su loro stessi? Questa è la conseguenza della stessa logica, cioè la logica per cui si ritiene che si debba a tutti i costi sperimentare prima sugli animali. E dato che sull'animale si è ottenuto un risultato, si dice: guarda, non c'è nessun problema, ti paghiamo per fare questa sperimentazione. E in Svizzera vengono fatte sperimentazioni di questo genere, in passato ne hanno fatte in molte altre parti, gli Stati Uniti lo faceva sui carcerati, la Germania Est lo faceva all'insaputa dei malati per conto della Germania Ovest, eccetera eccetera. Ma è la conseguenza della sperimentazione sull'animale che porta a un modo non etico e non accettabile di sperimentare sull'uomo, fino a considerarlo cavia esso stesso a pagamento. Io credo che sia immorale. Noi dovremmo invece favorire una sperimentazione sull'uomo soltanto di un numero limitato di farmaci che realmente siano necessari. Inutile per motivi di concorrenza immettere sul mercato sempre nuovi farmaci che poi risultano o pericolosi o inutili. Bisognerebbe concentrare l'attenzione su pochi farmaci, questi fare una sperimentazione seria su sistemi umani, che vuol dire cellule, tessuti, organi, geni umani, tutte metodologie oggi ampiamente disponibili che permettono di riportare alla specie umana dei dati e poi trasferirle sull'uomo. Ma quali uomini? Quelle persone che possono averne dei vantaggi una volta che abbiano accettato e che siano stati adeguatamente informati, che possano averne dei vantaggi dalla sperimentazione e non che siano pagati per questo, avendo spesso dei danni. Quindi per una scienza più affidabile, più credibile e anche naturalmente più etica e più veramente umana, invitiamo a firmare, potete farlo online, www.stopvivisection.eu. Firmate e attivatevi a raccogliere altre firme se potete. Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. In principio fu la Russia con la piccola Laika, e poi sono venuti innumerevoli altri animali sacrificati alle ambizioni spaziali di questo o quello stato, ma ora forse qualcosa sta cambiando. Dicevamo di Laika, il cane che rincorse le stelle a bordo dello Sputnik. Era la prima impresa spaziale dell'Unione Sovietica, anno 1957. Ma Laika avrebbe di molto preferito continuare a rincorrere gatti e ciclisti per le strade di Mosca, se avesse potuto decidere lei. Laika non era un cane qualsiasi. Il dottor Dmitry Maleshchenkov, lo specialista che la seguì, ha raccontato di recente a un congresso di medicina spaziale a Houston le ultime ore di Laika. L'elettrocardiografia seguita via radio segnò un aumento parossistico delle pulsazioni. Quando i motori si accesero, il missile cominciò a vibrare, sollevandosi dalla piazzola, qualcosa che la cagnetta non aveva mai provato prima. Raggiunta la velocità orbitale, il ventilatore, secondo i leggendari standard del controllo di qualità sovietica, naturalmente non funzionò e la temperatura nella trappola spaziale cominciò a oscillare fra il caldo e il freddo estremi. Il suo cuore di cane prese a battere regolarmente, fibrillando quando l'assenza di peso rallentò di colpo le pulsazioni, e alla quarta orbita, dopo 5 ore di tormento, il tracciato divenne misericordiosamente piatto. Forse fu la temperatura a ucciderla, o l'umidità che si era accumulata nel suo ansimare dentro quello spazio, o l'anidride carbonica che i filtri nella capsula avrebbero dovuto ripulire, ma che probabilmente non funzionarono a dovere. Il dottore non è sicuro, ma chiunque conosca un cane e abbia visto gli occhi di Laika mentre la insaccano dentro la sua gabbia sa di che cosa è morta quella cagnetta. È morta di paura e solitudine. Prima di lanciare nello spazio un essere umano, diversi animali sono stati spediti in orbita per aprire la strada alle successive avventure di esplorazione dell'uomo. Questi veri e propri pionieri, incluse numerose scimmie, hanno silenziosamente servito la propria nazione con l'obiettivo di investigare gli effetti biologici di un viaggio spaziale. Gli Stati Uniti preferirono utilizzare delle scimmie per le loro missioni e lanciarono numerosi voli principalmente fra il 1948 e il 1961. Complessivamente un totale di 32 scimmie presero parte al programma spaziale USA. Numerose scimmie di riserva affrontarono il programma di addestramento, senza mai volare. Ultima in ordine di tempo la preparazione della NASA ad una missione su Marte. Si erano scelte 30 scimmie scoiattolo da sottoporre ad una serie di test per conoscere in anticipo gli effetti che le radiazioni, durante l'esposizione nel viaggio verso Marte, possono provocare al cervello umano. Per fortuna, dopo una campagna di un anno, l'associazione americana PCRM, che promuove ricerca clinica, medicina preventiva e non condivide la sperimentazione su animali, che nel novembre 2009 aveva presentato una petizione affinché il governo federale bloccasse questi esperimenti che contrastavano le stesse leggi federali sul benessere degli animali, ha reso noto il comunicato ricevuto dal Brookhaven National Laboratory, il laboratorio dove le scimmie venivano bombardate per poi essere trasferite al McLean Hospital, per le fasi successive del progetto. La NASA ha annullato tutti gli esperimenti a cui dovevano essere sottoposte le scimmie per questioni scientifiche ma anche etiche. Bombardare di radiazioni le scimmie vive è crudele e inutile dal punto di vista scientifico, afferma il dottor John Pippin, consigliere medico scientifico del PCRM. Sono lieto che il Dipartimento dell'Energia abbia annullato questi esperimenti errati. Con il finanziamento del Dipartimento dell'Energia USA, le scimmie infatti sarebbero state colpite da basse dosi di radiazione, con immense sofferenze successive alle esposizioni, causa anche di tumori mortali, né studiati dai ricercatori. In particolare bisognava tenere in considerazione le relazioni del sistema nervoso centrale e cambiamenti del comportamento nel corso del lungo periodo. Questi primati, molto intelligenti e dotati di un'alta capacità di socializzazione, sarebbero stati poi confinati in solitudine in gabbie di metallo per almeno 4 anni, e sarebbero stati tenuti ogni giorno in apparecchi di contenzione. Peccato che ogni specie sia diversa dalle altre, per cui i risultati delle sperimentazioni effettuate sulle scimmie non sarebbero stati utilizzabili per l'uomo. Peccato pure che anni e anni di esperimenti di radiazioni sulle scimmie non abbiano prodotto niente di utile per i programmi spaziali. Ora finalmente la NASA sta rivedendo i progetti di ricerca su voli spaziali con persone a bordo. Secondo il dottor Pippin, gli 1,75 milioni di dollari spesi per questi esperimenti sarebbero stati più adatti alla ricerca dei metodi relativi agli esseri umani. Ma sempre dagli studi NASA per l'espedizione su Marte arriva un'ottima notizia. Un team coordinato dalla scienziata Maya Cooper, ricercatrice presso la Lockheed Martin, dovrà definire un menù che andrà ad alimentare 6-8 astronauti, i quali rimarranno in missione per 2 anni e mezzo, 6 mesi di viaggio per Marte, 18 mesi di permanenza sul pianeta rosso e altri 6 mesi di viaggio di ritorno verso la Terra. Circa 100 ricette vegane sono state selezionate in base alla loro adattabilità alla realizzazione nello spazio, dopo la consultazione di numerosi libri di cucina vegan. Verranno poi preparate e successivamente liofilizzate, garantendo così alle porzioni una durata minima stimata di 2 anni. La squadra di Cooper ha scaricato carne, uova e latte, considerando che sono troppo difficili da utilizzare in un viaggio così lungo. Il menù non deve essere solo sano e nutriente, dice la dottoressa, ma fornire abbastanza varietà e sapore. Comprende cibo come tofu e noci, la classica pizza al pomodoro e la Thai pizza, una pizza thailandese che non ha il formaggio ma è farcita con carote, peperoni rossi, funghi, scalogno, arachidi e una salsa piccante fatta in casa. I ricercatori stanno anche lavorando sul concetto di una serra marziana che permetterebbe agli astronauti di coltivare le verdure per preparare pasti essi stessi. Questo menù è vantaggioso in quanto permette agli astronauti di avere effettivamente le piante vive che stanno crescendo, dice Maya Cooper. Hai ottimale apporto di nutrienti a base di frutta e verdura fresca. E a noi di Restiamo Animali piace particolarmente perché così poi i medici di tutto il mondo non potranno più dire che la dieta vegan non è completa, se ci riescono a sfamare dei marcantoni per 2 anni. Ground control to Major Tom, your circuit dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ciao a tutti, sono Sara e oggi vi propongo una buona zuppa, calda, densa e saporita, l'ideale per questi giorni di freddo. Si tratta di una crema di funghi e porri. Forse l'aspetto non sarà dei migliori, i funghi in effetti hanno un colore marroncino spento che esteticamente non è il massimo, però il sapore è buono, delicato e appagante. Pure per la coscienza, visto che è vegan e ultraleggero. Gli ingredienti sono 2 porri, 2 spicchi d'aglio grandi, 500 g di funghi freschi, 2 patate, un rametto di rosmarino, qualche foglia di salvia, un pizzico di peperoncino, sale, pepe, olio extravergine d'oliva, prezzemolo tritato e 2 tazze di brodo vegetale. In una pentola, se l'avete di coccio sarebbe il massimo, fate soffriggere gli spicchi d'aglio, i porri tagliati a rondelline e il rosmarino tritato fine con un po' d'olio. Quando sono ben rosolati, aggiungete le patate e i funghi tagliati a pezzetti, regolate di sale, pepe e aggiungete un pizzico di peperoncino. Dopo qualche minuto coprite con brodo bollente, abbassate il fuoco e fate cuocere per almeno 30 minuti. Frullate tutto velocemente con il mini pimer. Terminate con una spruzzata di prezzemolo tritato, un filo d'olio crudo e servite subito, calda e fumante. Ciao, alla prossima! Sostiene Vallauri. Believe love will prevail, the path is clear for me to follow. Shooting stars will leave a trail for me to fill with joy and sorrow. Oh, oh, oh. Oggi chiudiamo il breve ciclo che abbiamo dedicato alla Settimana Mondiale per l'Abolizione della Carne. Abbiamo iniziato con Marco Reggio di Oltre la Specie, poi abbiamo intervistato il professor Gianni Tamino e oggi chiudiamo con il professor Luigi Lombardi Vallauri che immagina da par suo come sarebbe un mondo senza allevamenti e macelli. Ho provato a immaginare il mondo senza carne e ho anzitutto immaginato il mondo senza, cosa non ci sarà, e poi il mondo con, cosa ci sarà. Il mondo senza sarà spaventoso. Non ci saranno più allevamenti intensivi di bovini, di polli, di maiali stipati. Non ci saranno porcilaie fangose carcerarie. Non ci saranno mattatoi con i loro corpi squartati, i loro fiumi di sangue e di angoscia, i liquami. E non ci saranno più pascoli pesticciati e fecali, non si produrranno più milioni di quintali di merda di maiale, non ci saranno più le feste. Cos'è il giorno del ringraziamento senza i tacchini resi torri di carne traballante? Un Natale senza capponi, cioè senza galli castrati per farli diventare più grassi e morbidi? Che cos'è un Capodanno senza zamponi e cotechini? Che cosa sono le Pasque senza agnelli pasquali? I venerdì e le quaresime senza pesci? E poi i ristoranti senza baffuti buongustai della bistecca, senza l'odore allegro delle grigliate, i ristoranti senza vetrine di ghiaccio con su pesci dagli occhi sbarrati, e cosa dire delle vetrine di via Tornabuoni, senza pellami, senza scarpe rosa shocking tacco 12 da 2000 euro, e gli uffici senza executive con la borsa di pelle, e pensiero desolante, doppiette cartucce senza cacciatori, derelitte, abbandonate. Mi chiedo, varrà ancora la pena di vivere? Ma il paesaggio si fa ancora più fosco quando pensiamo il mondo senza carne, con la rivincita degli alberi sui pascoli, con le foreste in cui, vi rendete conto, scorazzeranno cervi, caprioli, istrici, lepri, cinghiali, si arrampicheranno scoiattoli, svolazzeranno passeri, tordi, pettirossi. In montagna il cielo sarà solcato da voli di aquile, di falchi. Sulle rocce, sui ghiaioni, ai piedi delle pareti, sui crinali di erba nel vento, sosterranno intrepidi o balzeranno agili, camosci e stambecchi, si appoggeranno zampette sulla spalla guardando i tramonti marmotte. I fiumi saranno lampeggianti di squame argente, i fondali marini offriranno ai subacquei panorami multicolori, animati. Ripeto, varrà ancora la pena di vivere? Certamente, se non si mangia più carne, il pianeta da antropocentrico diventerà biocentrico, ecocentrico, e avrà tratti oggi sconcertanti. Pensate, smantellamento delle megalopoli, per esempio, bonifica estetica e ecologica delle città storiche, disseminazione di piccoli nuclei urbani e di neovillaggi quasi invisibili per vaste distese verdi, radure e pianure agricole, fiorifere e fruttifere, adducenti a fitte animate foreste, e la pace neoedenica con le bestie lavoratrici e compagne di vita, e tutti gli insediamenti umani del pianeta, al tempo stesso custodi delle tradizioni naturali e culturali locali e connessi tra loro, quasi unico organismo solidale, da reti comunicative il più possibile celate o impalpabili, abitati da agricoltori e silvicoltori provetti, doublé di scienziati artisti contemplativi. O sono anormale, o sono strano perché sono normale. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Camino, e adesso Un'eterna Treblinka di Charles Patterson, uscito in prima edizione nel 2002, è un libro molto importante per la cultura animalista e antispecista, ed è anche un libro che disturba i più, per l'accostamento esplicito fra lo sterminio degli ebrei compiuto dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e la sorte inflitta nella nostra società agli animali sfruttati e uccisi in massa per produrre cibo e vestiario, per testare i farmaci e per molto altro ancora. Il massacro degli animali e l'olocausto è il sottotitolo dell'edizione italiana. Ci sembra che sia il libro giusto, dal nostro punto di vista, per rendere omaggio alla giornata della memoria che si celebra oggi. E vale quindi la pena di cominciare citando la frase di Isaac Bashevis Singer, da cui è tratto il titolo del libro. Scriveva il grande scrittore ebreo, premio Nobel per la letteratura nel 1978, nel libro L'uomo che scriveva lettere. Herman pronunciò mentalmente l'elogio funebre della topolina che aveva diviso con lui un tratto della propria vita e che per colpa sua se n'era andata da questa terra. Che ne sanno di quelli come te, gli studiosi, i filosofi, i leader di questo mondo? Si sono convinti che l'uomo, il peggior trasgressore di tutte le specie, sia il vertice della creazione. Tutti gli altri esseri viventi sono stati creati per procurargli cibo e pellame, per essere torturati e sterminati. Nei loro confronti, tutti sono nazisti. Per gli animali, Treblinka dura in eterno. È una frase bellissima e tremenda, che coglie un aspetto della nostra vita sociale che tutti noi vorremmo rimuovere. E il rifiuto del parallelismo fra l'olocausto degli ebrei e l'olocausto degli animali, in nome di un presunto dovere di rispetto per la vita umana e per gli ebrei, fa parte di questa rimozione. Il libro di Patterson, ebreo-statunitense, e le numerose testimonianze contenute in questo libro di sopravvissuti ai lager divenuti animalisti hanno quindi una funzione liberatrice. Patterson non fa sconti. Ricorda l'origine dello sfruttamento animale nel passaggio, 11.000 anni fa, da un'alimentazione basata su caccia e raccolta a una basata sulla coltivazione delle piante e la domesticazione degli animali, ma passa presto a mostrare gli intrecci fra sottomissione degli animali e schiavitù umana, esito di una medesima logica di uomo padrone. Patterson mette nero su bianco il legame fra Auschwitz e i mattatoi, con una ricostruzione storica che ha il suo perno nell'industriale Henry Ford, capostipite dell'industria automobilistica mondiale, nonché terribile antisemita. Ford concepì la sua industria, in particolare la catena di montaggio, ispirandosi ai famosi mattatoi di Chicago, descritti in un libro memorabile, La giungla, dello scrittore socialista Upton Sinclair. Siamo agli inizi del Novecento. Poco dopo sarà Hitler a ispirarsi alle fabbriche di Henry Ford, peraltro unico statunitense citato nel Mein Kampf, per i suoi campi di concentramento e di sterminio. L'Eterna Treblinka è un libro inquietante, incalzante, che scuote da ogni torpore. Impossibile negare il nesso che lega quella società della morte e della distruzione che fu edificata sotto il nazismo all'industria della morte che si cela dietro i pasti, le scarpe, le cinture della nostra vita quotidiana. Helmut Kaplan, filosofo austriaco e grande assertore dei diritti animali, in una citatissima frase ha sintetizzato un concetto angosciante. I nostri nipoti, ha scritto, un giorno ci chiederanno: dov'eri durante l'olocausto degli animali? Che cosa hai fatto per fermare questi crimini orribili? A quel punto non potremo usare la stessa giustificazione per la seconda volta, dicendo che non lo sapevamo. Charles Patterson nel suo libro descrive la macchina di schiavitù e morte che accompagna le nostre vite, la crudeltà istituzionalizzata contro i deboli e gli indifesi attuata nell'indifferenza generale, un'indifferenza che è complicità. Perché accade tutto questo? Si chiede Patterson. Perché gli animali non possono né ribellarsi né difendersi contro coloro che li uccideranno e li mangeranno. E perché, aggiunge, vi sono così poche persone disposte e capaci di combattere per loro. Vi proponiamo un brano da Un'eterna Treblinka di Charles Patterson, Editori Riuniti. Alex Ehrschaft, fondatore e presidente del Farm Animal Reform Movement di Bethsaida nel Maryland, trascorse parte della sua infanzia nel ghetto di Varsavia. Dopo la fuga dal ghetto, passò il resto della guerra nascondendosi dai nazisti, nelle campagne polacche. I tedeschi uccisero suo padre, ma sua madre riuscì a sopravvivere e si ricongiunse con Alex dopo la guerra. Prima di emigrare negli Stati Uniti all'età di 16 anni, visse 5 anni in un campo profughi in Italia. Ho conosciuto in prima persona che cosa significhi essere trattato come un oggetto senza valore. essere cacciato dagli assassini della mia famiglia e dei miei amici, domandarsi ogni giorno se avrei visto l'alba successiva, essere caricato su un carro bestiame diretto al macello. Erschaft, che divenne vegetariano nel 1962, dichiara: «Ho sempre sentito che c'era qualcosa di eticamente ed esteticamente osceno nel prendere un bel animale senziente, colpirlo alla testa, tagliarlo a pezzi e rimpinzarmi. La mia esperienza mi ha portato a una continua ricerca della giustizia per gli oppressi, e in questa ricerca ho scoperto presto che gli esseri più oppressi della terra sono gli animali non umani, e i più numerosi e più oppressi fra loro sono gli animali d'allevamento». Io chiedo, come può l'uomo uccidere un suo fratello? Eppure siamo a milioni in polvere. Redazione di Restiamo Animali vi vuole invitare all'aperitivo vegano in favore dei cani del canile del Termine. Venerdì 1 febbraio 2013 presso il pub Pangoro in via Pisana 82 Rosso a Firenze, dalle 19.30 fino a tardanotte. 10 euro, aperitivo vegano ovviamente e musica. In quell'occasione sarà possibile firmare per la campagna Stop Vivisection e sarà anche possibile portare del materiale utile al canile. Quindi parliamo di scatolette, cibo secco, ma anche guinzagli, pettorine e tante tante coperte che in questo momento sono veramente preziose. Vi aspettiamo! In questa e in altre puntate abbiamo raccontato l'avventura di Davide Battistini, che sta digiunando per ottenere una legge regionale contro le catene che tengono segregati i cani. E Restiamo Animali ha deciso di appoggiare questa iniziativa digiunando a turno, uno alla volta, un giorno per uno. Da domani rifiuteremo di mangiare in solidarietà con Davide e invitiamo tutti gli ascoltatori a fare altrettanto. Sul nostro blog proporremo una cronaca del nostro digiuno, le nostre considerazioni, le nostre idee, le nostre proposte. Tutti quelli che vorranno partecipare sono benvenuti e li invitiamo fin d'ora a scrivere e a seguirci sul blog restiamoanimali.wordpress.com. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.